Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, al di là delle borse, oggi debole Milano -1,30, invece invariata Parigi e Francoforte +0,70, Londra -0,80, di nuovo in flessione le banche, di nuovo sull'otto volante le banche. Monte dei Paschi perde l'8,50, la Pop Milano il 5,60, Unicredit il 5,30, Intesa pure, 4,70% del calo di UbiBanca, 3,90% quello del Banco Popolare, e poi invece Mediobanca -2,6%, Anima Holding -2,5%, Eni -2%. In realtà ci sono anche i titoli positivi, penso a ST Microelectronics che guadagna il 4,70, Telecom il 4,30, Buzzi Unicem il 4, A2A il 4, Azimut il 3,33. Saipem il 2,80, Luxottica +2,6, Finmeccanica +1,90, Poste +0,90%. Come spesso spieghiamo, quando vanno male i titoli bancari, da questo punto di vista l'Italia perde di più come indice perché ha un peso superiore nella composizione dell'indice, ma è chiaro, così anticipo chi sta già scrivendo, al 349-238-6666, sia per gli sms che per WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Dicevo, il tema di oggi riguarda la crescita, o meglio la revisione sulla crescita. Perché? Perché l'OCSE oggi nel suo rapporto ha rivisto a ribasso tutta la stima sul 2016 a livello mondiale, 3% contro il 3,3 e 3,3 nel 2017 contro il 3,6. Al ribasso di una cifra analoga anche le stime per l'area euro, dall'1,8 all'1,4 per quest'anno e dall'1,9 di crescita all'1,7 per l'anno prossimo. Ora lo dico già per quello che chi scrive. Purtroppo in questi anni, e l'abbiamo detto molte volte, ci hanno abituato OCSE, Fondo Monetario e anche Commissione Europea alle revisioni continue a ribasso. Sono film che abbiamo già visto. Qualcuno ricorderà quando si disse che nel 2013 vi sarebbe stata la crescita, poi non arrivò, e di trimestre in trimestre si limavano le stime. Spero che non sia un film già visto. Temo che sia un film già visto, perché siamo a febbraio e già abbiamo visto delle limature per quello che riguarda l'inizio anno. Le limature vanno avanti, tant'è che anche per l'Italia, rispetto all'1,4% di crescita del PIL, l'OCSE lo riduce all'1%. Allora, l'1,4 era già poco, l'1% ancora meno, speriamo non sia un altro 0,7, visto che anche quest'anno dovevamo fare l'1% e poi abbiamo chiuso con uno 0,7%. Su questo comunque si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Salvatore Padula. Parleremo delle previsioni dell'OCSE, parleremo anche della Corte dei Conti italiana, che dà un giudizio abbastanza duro sulla spending review, parla di parziale insuccesso sulla revisione della spesa e dice: attenzione, i margini sulla revisione della spesa per i prossimi anni sono molto limitati, servono correzioni non marginali, ma ci sono pochi spazi per i risparmi. E poi vabbè, aggiunge che la complessità delle leggi rende fertile l'illegalità. Faccio notare che oggi ci sono anche delle stime sulla quanto costa l'illegalità a livello italiano, cioè un quinto praticamente del PIL se ne va, quindi più o meno 60 miliardi di euro all'anno se ne vanno in tangenti e affini come danno economico per il paese. Però parleremo appunto sia delle prospettive dell'OCSE, sia diciamo della del tema discusso al Consiglio europeo, che è un Consiglio europeo che si occupa in primo luogo dei migranti, ma dove Renzi è arrivato con le dichiarazioni che anche ieri abbiamo ricordato, e cioè no, l'Italia metterà il veto a qualunque tetto alle banche, se dovesse essere proposto in Europa un tetto al numero di titoli di Stato, alla montata di titoli di Stato in pancia a una banca, l'Italia dirà no al tetto perché lo ritiene penalizzante per se stessa. E ha citato esplicitamente ieri le due banche tedesche, Deutsche Bank e Commerzbank, dicendo avessero comprato più titoli italiani invece che titoli tossici ci sarebbero messe meglio. Parleremo anche di questo. 349-238-6666 per i vostri sms. Il Jobs Act, non capisco cosa c'entri con quanto stiamo dicendo. I dati sul Jobs Act diffusi dall'INPS sono positivi, non è che uno debba mai... Io non capisco certi ascoltatori, cioè già ci sono abbastanza problemi, una crescita che a livello mondiale delude o viene rivista a ribasso, gli Stati Uniti su cui tutti si interrogano terranno noi consumatori americani, che sono l'unica leva che abbiamo per il 2017, cosa c'entra il Jobs Act? I dati su Jobs Act, ma soprattutto sulla decontribuzione che è iniziata prima del Jobs Act ed è terminata con dicembre nella sua parte più... nella sua fetta più grossa, ce n'è anche nel 2016, ma per un ammontare che è la metà di quello dell'anno scorso. Dicevo, i dati diffusi dall'INPS sono inequivocabili, vi è stato un aumento dei contratti a tempo indeterminato e il saldo è positivo di 700.000 rispetto a negativo di 50.000 nel 2014, ma dobbiamo essere contenti se ci sono più contratti a tempo indeterminato. Io veramente la logica del tanto peggio, tanto meglio non l'ho mai capita e continuo a non capirla. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, andiamo avanti con le altre notizie in breve. Oltre a quanto ricordato, il prezzo del petrolio oggi è leggermente risalito a 31,6 dollari al barile, più 3%. Ieri in serata è arrivata un'apertura da parte dell'Iran sull'accordo proposto da Mosca e Riyadh, quindi da Russia e Arabia Saudita. Ha detto ok, siamo disponibili a passi in avanti per stabilizzare il mercato del petrolio e rafforzare il prezzo del greggio. Lo ha detto proprio il ministro del petrolio iraniano della Repubblica Islamica Bijan Zanghaneh, dopo che aveva incontrato ieri i suoi colleghi del Qatar, del Venezuela e dell'Iraq. Oggi gli Emirati Arabi hanno dato il loro sostegno all'iniziativa per congelare gli attuali livelli di produzione del petrolio, che insomma adesso è troppo presto per dirlo, però fosse così sarebbe una sconfitta clamorosa della politica dell'Arabia Saudita, nel senso che ha cercato di espellere dal mercato i produttori di olio, di shale oil americano, non si è resa conto che questo andava a inserirsi e in un momento in cui c'era una minor domanda di petrolio a livello mondiale per il rallentamento cinese, non solo, e quindi il combinato disposto ha creato un abbassamento del prezzo del petrolio senza precedenti che è sfuggito probabilmente di mano agli stessi paesi produttori. Ancora vedo ancora. Dunque, qualcuno dice state diventando statalisti, ma non mi sembra proprio. Abbiamo una rubrica domani che si occupa di come vengono male utilizzati i soldi pubblici. Non capisco dove stiamo diventando statalisti. Nessuno è contento per il prezzo del greggio che sale. Dipende di cosa intendiamo per il prezzo del greggio che sale. Il problema, guardi, lo dico a chi sta scrivendo, è che se il prezzo del petrolio scende per un effetto di una crescita minore a livello mondiale, è solo un termometro di una crescita che non va bene. È ovvio che il petrolio basso ha dei grossi vantaggi per noi che siamo importatori netti, l'abbiamo sempre ricordato. Però mettiamola così, come certe medicine fanno bene a piccole dosi, se la dose inizia a essere massiccia si va dalla parte opposta, cioè si va in deflazione o in assenza di inflazione con problemi che abbiamo spesso ricordato. in primo luogo due, ossia che quando i prezzi sono in calo tutti i consumatori rimandano gli acquisti aspettando prezzi ancora più in calo e la cosa si avvita, e soprattutto prezzi in calo aumentano il valore reale dei debitori. Noi siamo grandi debitori, ma anche le famiglie che hanno un mutuo sono debitori, perché è chiaro che se tu hai un'inflazione del 10%, dopo un anno il tuo valore è calato del 10% in termini reali. Se tu hai una deflazione del 10%, dopo un anno il tuo debito è aumentato in termini reali del 10%. Io non so se questo possa essere un indicatore economico, diciamo, di quelli così da usare a livello empirico, però negli Stati Uniti per la prima volta le vendite di iPhone, e non solo negli Stati Uniti perché il dato della Apple riguarda le vendite complessive dell'iPhone, sono scese del 4,4% rispetto al quarto trimestre 2014. La Apple fa notare che è la prima volta che si assiste a un calo trimestre su trimestre. Nel complesso le vendite sono aumentate del 9,7% l'anno scorso rispetto al 2014, che però è il tasso di crescita più basso per l'Apple nel 2008. Ora, uno può dire c'è la concorrenza di Samsung, di altri produttori, per carità, però insomma può essere anche un indicatore su consumi che tendono un po' a frenare. E ahimè, dagli Stati Uniti arriva anche un'altra notizia, che scendono vendite e ricavi del colosso statunitense Walmart. Una volta si diceva c'è Wall Street e c'è Walmart, nel senso che Wall Street fa finanza e Walmart rappresenta l'economia reale, la più grande catena della grande distribuzione che c'è negli Stati Uniti. Ebbene, Walmart ha registrato un calo dei ricavi dell'1,4% e anche delle vendite nel quarto trimestre. Il Brasile, dicevo, declassato il debito brasiliano da BB+ a BBI, giustificato dall'instabilità politica, e quindi il processo di impeachment spiega stando in posa a carico della presidente Dilma Rousseff, oltre alla crisi di Petrobras, il colosso brasiliano in crisi per il prezzo del petrolio, e le stime peggiorano. 2015 per il Brasile si chiuderà come il peggior anno da 25 anni, meno 4%. Dal 1990, quando la contrazione del PIL fu del 4,35%. E allora non deve sorprendere, io mi auguro che poi fra qualche mese faremo puntate in cui i consumatori americani saranno tornati a consumare, in cui il petrolio si sarà stabilizzato, i paesi OPEC torneranno a consumare, però in questo momento non deve sorprendere il rapporto dell'OCSE, anche se un film già visto, in cui la crescita mondiale viene ridotta. Uno, vedo alcuni messaggi, beh, dal 3,3 al 3% non è gran cosa, beh insomma è il 10% della crescita mondiale in meno, non è poco. Dicevo che su questo si concentrano i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi su RDS, anche su RDS. La firma è del vice direttore Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Sulle prospettive economiche globali c'è sempre meno ottimismo. Oggi è l'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, a formulare un verdetto quanto mai pesante. Il mondo è in netta frenata, l'Europa pare vulnerabile, l'Italia cresce troppo poco. Secondo l'Organizzazione Internazionale, che ha sede a Parigi, la crescita del PIL italiano nel 2016 dovrebbe fermarsi all'1% contro l'1,4% stimato in precedenza dall'OCSE stesse, e contro addirittura l'1,6% previsto dal nostro governo. Che cosa accade? Beh, diciamo che non è solo colpa nostra, ci sono variabili globali che pesano sulle economie di tutti i paesi e che forse per la nostra economia, non ancora uscita in modo forte dalla recessione, finiscono per pesare ancora di più. La crescita rallenta nei paesi emergenti e i paesi avanzati possono contare solo su una ripresa modesta, forse Stati Uniti a parte. Come se non bastasse, i prezzi delle materie prime, petrolio in primis, restano bassi e da un lato deprimono i paesi esportatori, dall'altro contribuiscono a tenere l'inflazione a livelli troppo bassi. Come se non bastasse, tutto ciò aumenta l'instabilità dei mercati finanziari, con una volatilità che abbiamo ampiamente sperimentato e visto in queste settimane. Quale può essere la cura? Beh, secondo l'OCSE la politica monetaria da sola non può più bastare. Servono politiche fiscali a sostegno degli investimenti e a sostegno della domanda interna. La stessa ricetta, la stessa cura lanciata da Mario Draghi qualche giorno fa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, andiamo col primo tema. È chiaro che l'oggetto non fosse di carattere strettamente economico nel Consiglio europeo, anche se si parlava della Gran Bretagna, è più politica estera ovviamente, però alcuni di voi mi chiedono se parlerete di Meridiana. Sì, parleremo anche di Meridiana, non vi preoccupate, e della Corte dei Conti sulla spending review. Vorrei concentrarmi invece su quanto sta capitando a livello europeo. Perché mentre nel Consiglio europeo si parlava di Brexit, di uscita dalla Gran Bretagna e di migranti, nel frattempo in questi giorni il ministro degli interni dell'Austria e il ministro della difesa hanno annunciato, austriaco sempre, la riapertura dei posti di blocco ai valichi del confine meridionale. Poco fa ne ha parlato anche Renzi, ha detto capisco l'Austria ma no alla chiusura del Brennero, per limitare il flusso di migranti. In totale i valichi sono 12. Quelli con l'Italia, molto noti, sono 3, Tarvisio, Brennero e Passo Resia. Molto preoccupati gli autotrasportatori per il danno economico che potrebbe causare il provvedimento, anche e soprattutto, non è difficile arrivarci, su Brennero e Tarvisio, dove c'è un transito di circa 2 milioni e 700 mila veicoli pesanti, camion all'anno, e 40 milioni di tonnellate di merci. Se ho ben capito vi sarà anche una manifestazione in programma sabato 20 febbraio. Ringrazio per averci raggiunto ringrazio Thomas Baumgartner, che è presidente di ANITA, che è l'Associazione Nazionale delle Imprese di Autotrasporto e Logistica. Buonasera presidente, mi sente? Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori. Allora, vedo che oggi anche il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha detto non mi piacciono le misure, i controlli in Austria, stiamo verificando la legalità. E poi l'Unione Europea oggi ha chiarito che il tetto che l'Austria intende imporre sull'accoglienza dei richiedenti asilo sarebbe chiaramente incompatibile con gli obblighi rispetto alle leggi europee e internazionali. Lo ha detto il commissario europeo Dimitris Avramopoulos. Nel frattempo però la Serbia, che chiaramente non è nell'Unione Europea, dice faremo come l'Austria, non possiamo essere noi a risolvere i problemi altrui. Che danno state registrando alla frontiera del Brennero, se ho ben capito, più che a Tarvisio, se mi spiega anche perché, e da questo punto di vista che cosa vi aspettate che faccia l'Austria? Sì, prima di tutto non è che al Brennero ancora sono iniziati i controlli come annunciati, non è stato fatto ancora lo steccato che si vuole eleggere, però logicamente siamo preoccupati moltissimo per quanto riguarda queste misure che l'Austria vuole fare. Siamo d'accordo con la comunità europea che bisogna assolutamente evitare, perché ci ripiomba tutto il mercato del trasporto e logistica negli anni 80, prima della liberalizzazione, dell'abbattimento delle dogane e dei confini, dove erano stati fatti dei calcoli che l'abbattimento dei confini e delle dogane aveva portato dei vantaggi economici alla comunità europea di miliardi e miliardi di euro per meno tempo che si spendeva sui confini, per meno intralci, per velocizzare il trasporto e tutto quanto. Oggi poi il trasporto è organizzato talmente bene col just in time, per esempio nel settore automobilistico, che neanche più potrebbe funzionare, le aziende non hanno più i magazzini per i prodotti, ma noi col nostro camion facciamo da magazzino, arriviamo alla catena di montaggio proprio per portare il pezzo di ricambio che va montato sull'automobile, perciò subire dei rallentamenti di un'ora, due ore, ma soprattutto mai sapendo esattamente quanto di rallentamento si deve subire, sarebbe impossibile. Cioè, oltre... Ma scusi, ho capito bene, vi preoccupa più il Brennero che Tarvisio, o è solo così il titolo delle agenzie? Ovviamente il Brennero, ci sono 2 milioni di camion che passano ogni anno, il Tarvisio sono molto di meno, perciò ovviamente ci la preoccupazione più. Il Brennero è lo sbocco, passo di gran lunga maggiore per le scambi tra l'Italia e i paesi nord europei. Ecco, su questo siete un po' confortati da quanto emerso oggi dal Consiglio europeo, che è il nostro prossimo tema, cioè insomma, hanno detto che l'Austria non può permettersi di mettere questi blocchi e diciamo uscire, è illegale il tetto ai profughi, oltre alla dichiarazione del Presidente Juncker che ha detto non mi piacciono queste misure? Noi siamo assolutamente conformi con quanto dice il Presidente Juncker. L'Austria purtroppo, essendo paese di transito, cerca sempre di fare la sua politica medievale, ricordo anche che cerca di introdurre un divieto settoriale, cioè cerca di pretendere da certe tipologie di merce di dover passare via ferrovia, anche questo appunto le normative europee, ed è bene che qui l'Europa faccia sentire la sua voce, perché o siamo un'Europa unita o siamo una cooperazione di stati dove ogni stato fa quello che vuole. E questo ci porta direttamente al prossimo tema, e nel ringraziarlo, ossia siamo una corporazione di stati dove ognuno fa ciò che vuole, che è la sensazione che, lo dico in maniera molto esplicita, negli ultimi anni, negli ultimi tempi l'Europa ci ha dato, o abbiamo un obiettivo comune? A giudicare dalle pulsioni centrifughe, mi riferisco alla Gran Bretagna con la Brexit, ma non solo, anche dal modo in cui viene gestita la crisi dei migranti, e aggiungo io, visto il programma, anche dalle politiche economiche e dall'obiettivo dell'economia, in cui è sembrato sostanzialmente che alcuni paesi pensassero solo ai loro interessi, e tanto è ovvio che citerò la Germania. Beh, insomma, oggi la prima giornata del Consiglio europeo, dedicata formalmente al negoziato tra l'Unione europea e il Regno Unito, l'emergenza migranti sarà affrontata durante la cena. Detto così, non è bellissimo come immagine, però verrà affrontata durante la cena. Sullo sfondo c'è, ed è chiaro a tutti, la tenuta dell'Europa, la tenuta politica, ma anche e soprattutto economica, nel senso che meno vi è la seconda, più è a rischio la prima. Allora, ringrazio per averci aggiunto in collegamento da un lato il professor Sergio Fabbrini, politologo, insegna scienze politiche e relazioni internazionali alla LUIS di Roma, e dall'altro la mitica, ormai mitica, Adriana Ceretelli, editorialista del Sole 24 Ore da Bruxelles. Fabbrini, buonasera. Non mi siete buonasera. Ancora? Ecco Adriana. No, buonasera. Adriana, sì. Mi rispondi anche per Fabbrini, va bene, ma rispondimi. No, va bene. Buonasera, lo stavo per dire. Interpellata. Lo stavo per dire anche a te. Buonasera anche, se mi levate l'ascolto della regia. Grazie anche a te Adriana. Senti, arrivando al tema di fondo, poi vedremo le singole dichiarazioni. Il Presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha detto è un summit o la va o la spacca. E vabbè, Cameron ha detto combatterò per la Gran Bretagna. Adesso ascolteremo anche cosa ha scritto Fabbrini oggi sul Sole 24 Ore, dove dice attenzione, qua c'è una Brexit tutta sbilanciata verso la Gran Bretagna, ma è difficile che poi gli elettori britannici si occupino o vengano influenzati da questi accordi, e con un titolo abbastanza emblematico: per grandi decisioni servono grandi leader. Intanto cerchiamo di capire, in ballo, quando Tusk dice insomma o la va o la spacca, si riferisce solo alla Brexit o sullo sfondo c'è proprio la tenuta stessa dell'Europa, sia politica che economica? È una domanda che fai a me? Sì, certo. Ah, scusa, non avevo capito. Allora, sì, voglio dire che l'Europa sia in una situazione da o la va o la spacca, lo diciamo da mesi, i problemi si continuano a trascinarsi senza essere risolti. Speriamo che su Brexit si riesca a trovare l'accordo. Diciamo che in generale l'atmosfera è di ottimismo. L'accordo sarà sicuramente molto più bilanciato della proposta di Tusk, parlo della prima. La seconda ancora non è chiaro in che termini sia, ma comunque ci sono, diciamo, la maggioranza dei paesi che si è opposta alla prima bozza Tusk, dicendo appunto che va benissimo negoziare con la Gran Bretagna, ma purché non la si metta in condizione di prendere il meglio da tutto, mentre l'Europa prenderebbe il peggio da tutto. E mi spiego, la Gran Bretagna pretende, se non un potere di veto, certamente il potere di essere in qualche modo, di non essere tagliata fuori dalle decisioni europee che potrebbero incidere soprattutto sugli interessi della City. Ora sembra che con l'evoluzione appunto del negoziato il potere di veto sia escluso, ma anche la sua possibilità, diciamo, di trascinare nel tempo le decisioni proprio per evitare che vengano prese decisioni a lei nocive o comunque diciamo che non piacciono alla City, tutto questo si dovrebbe poter evitare, anche perché c'è una fortissima opposizione della Francia di Hollande che non intende fare dei favori alla City, anche perché non bisogna dimenticare che i mercati, va bene che la City è la City, ma i mercati francese e tedesco intendono, diciamo, affermarsi come piazze finanziarie rispetto alla City, e quindi certamente non vogliono dare dei vantaggi indebiti a Londra. Devo dire che insomma gli inglesi volevano un po' troppo, perché appunto, come tu ricordavi, vogliono conserveranno la sterlina, ma volevano avere un potere di interferenza o di condizionamento nelle politiche finanziarie dell'area euro, senza però che noi si potesse fare il contrario. Cioè, in questa proposta mancava la reciprocità. E ti chiedo anche che ne è del secondo aspetto, cioè il fatto che la Gran Bretagna potrebbe porre vincoli alla libera circolazione al suo interno dei cittadini degli altri paesi europei, ma gli altri paesi europei non avrebbero potuto fare lo stesso con i cittadini britannici. Allora, il problema è un po' più complicato, nel senso che gli altri non potrebbero fare come i britannici, semplicemente perché il sistema di welfare britannico è molto diverso da quello degli altri. Però il problema in quel caso è, direi, il punto sul quale probabilmente Cameron otterrà delle vere concessioni, nel senso che il famoso freno di emergenza glielo sarà concesso. Il problema in questo caso è evitare che altri paesi possano azionare lo stesso freno in futuro, ed è qui il punto che è poco chiaro, perché nella realtà altri paesi vorrebbero azionare quel freno, e penso in particolare, se non alla Germania federale, ad alcuni lender, per esempio la Baviera, che già ha diciamo detto di essere favorevole a una cosa di questo genere, così pure paesi nordici tipo la Svezia hanno in mente di prendere questo tipo di misure che limitino i benefici ai migranti, certo, non quelli, diciamo, europei, ma gli altri. Quindi diciamo che in generale questo spirito, se si vuole, nazionalistico, anche nei confronti della gestione del welfare, si sta affermando. E purtroppo in questo senso la Gran Bretagna rischia di fare scuola, e quindi l'opposizione su questo punto non sarà così forte come potrebbe essere, proprio perché ci sono degli interessi occulti che verranno fuori con il tempo, ma che in sostanza vedono di buon occhio la posizione britannica come un limite appunto ad offrire previdenze a persone che non pagano sufficientemente le tasse, insomma le solite cose che sappiamo. Che allora, intanto ringrazio il famoso turismo del welfare. Turismo del welfare, certo. Intanto ringrazio anche appunto il professor Sergio Fabbrini che ci ha raggiunto in collegamento. Le chiedo un attimo di pazienza, c'è prima meteo e pubblicità. Focus Economia. Credo però, e qui cominciano punti di non piena coincidenza, credo però che in ogni comunità il contratto sia una componente essenziale e che sia particolarmente un punto di debolezza della società italiana, anche nella visione qualche volta caricaturale che se ne ha all'estero, il fatto che noi privilegiamo l'aspetto comunità, l'aspetto solidarietà, e abbiamo un limitato rispetto nella teoria e nella pratica per le leggi. Quindi suggerirei di portare in Europa il messaggio della comunità, come lei sta facendo così bene, senza svilire quello di contratto. E temo, glielo dico con il dispiacere di chi ha pensato che anche sul piano europeo il suo governo potesse dare un contributo significativo, lei rischia di far fare, a mio giudizio, passi indietro importanti sia allo spirito di comunità in Europa, sia al contratto su cui ogni comunità si basa. Io sul tema del rispetto delle regole non accetto lezioni, perché lo considero un valore. Io credo che questo governo, numeri alla mano, stia dimostrando che si debbono ridurre le procedure di infrazioni, e lo stiamo facendo, che si debba ridurre il carico pendente di decreti attuativi, e lo stiamo facendo, che si debba ridurre il deficit e che si debba portare a ridurre la curva del rapporto tra debito e PIL, che purtroppo dal 2009 è salito in modo costante. Beh, uno scontro Mario Monti Renzi non si era ancora visto, però insomma ieri l'abbiamo avuto proprio sui temi europei. Ecco, Adriana Ceretelli, mentre abbiamo dei problemi, chiedo scusa agli ascoltatori, di collegamento con il professor Fabbrini, lo recupereremo o dopo o domani, a questo punto, nel senso che il programma termina a una certa ora. Dicevo, da questo punto di vista, insomma, lo scontro tra Mario Monti e Matteo Renzi è uno di quelli che riguardava, insomma, il rispetto dell'Europa. A chi mi chiede adesso, arriviamo anche alla borsa, vi arriviamo, meno 1,53% il finale, con un MIBD comunque sopra i 17.100 punti, mentre Parigi ha fatto più 0,15, Francoforte più 0,90, Londra meno 0,90, Dow Jones meno 0,20%, euro a quota 1,10,9 nei confronti del dollaro. Ma adesso vi arriviamo. Dicevo, al di là delle pretese britanniche e di quanto preoccupa perfino gli autotrasportatori, come abbiamo sentito, Adriana, il botta e risposta tra Monti e Renzi ieri, al di là della polemica interna, segnala due diverse visioni d'Europa. Secondo te, per quello che riguarda, dopo le dichiarazioni di ieri di Renzi, che ha detto attenzione sulle obbligazioni, non ci stiamo, metteremo il veto sul tetto delle obbligazioni e la Germania ha problemi ben più grossi dei nostri con due banche, questa distanza di visioni ben semplificata ieri da Monti e Renzi sta aumentando o si sta cercando di ricucire, alla luce anche delle tensioni che arrivano sul fronte britannico e sul fronte migranti? No, oggi Renzi è arrivato apparentemente con un atteggiamento poco aggressivo, direi abbastanza compassato. Che cosa succederà dentro al vertice? Naturalmente è difficile dirlo. Di sicuro l'Italia però intende fare barriera a questo tentativo della Germania di eliminare la sterilizzazione dei titoli pubblici dei bilanci bancari, ma soprattutto di imporre una riduzione dell'ammontare dei titoli pubblici in pancia alle banche. E tutto questo la Germania lo giustifica col fatto che se una parte dell'Eurozona vuole la mutualizzazione dei rischi, in particolare il meccanismo europeo sulla garanzia comune dei depositi, ecco, allora in quel caso i rischi vanno diminuiti, e quando la Germania dice vanno diminuiti intende, e lo dice apertamente, il rischio titoli di Stato dei paesi ad altissimo debito pubblico come il nostro. Sì, devo dire, Adriana, che ha avuto gioco facile ieri Renzi a ricordare che prima del rischio dei titoli di Stato in pancia alle banche la Germania dovrebbe guardare al rischio prodotti derivati in pancia a Deutsche Bank e a Commerzbank. Sembrava una palla quasi alzata. Nel senso che è strano che questa proposta arrivi quando i dubbi del mercato sono stati fortissimi anche su queste due banche, sull'esposizione a leva, perché voglio dire, la mutualità vale per tutti, anche se Deutsche Bank dovesse andare male vi sarebbe una garanzia su depositi di carattere europeo, per cui lì diciamo il gioco è stato facile, però insomma obiettivamente bisognerà aspettare la cena e il dopo cena anche di questa sera. Però... vai Adriana. No, quello che vorrei dire è assolutamente vero quello che tu dici, cioè che guardiamo ai rischi delle banche italiane, ma guardiamo ai titoli derivati, cioè ai titoli tossici che ci sono nelle banche tedesche. Perfetto, ma la differenza tra l'Italia e la Germania è una sola, che noi non abbiamo margini di manovra finanziaria, non c'è dubbio. Cioè non abbiamo soldi. Quelli esondano con i loro surplus e con i loro soldi, quindi sono in qualsiasi momento in grado di tappare i loro buchi, però loro scusami Adriana, ma col bail-in non possono più farlo, però nemmeno loro, nel senso bisognerà che bisognerà vedere o il bail-in vale per tutti o è un bail-in, certo, per dire alla genovese, nel sì, senso naturale. Che adesso ci hanno rotto le scatole addirittura prima che entrasse in vigore sulle quattro banche che non potevano essere salvati, gli obbligazionisti di Etruria, Chieti, Ferrara e Marche, nemmeno dal fondo privato delle banche, perché sarebbero stati aiuti di Stato. Adesso dal 1 gennaio c'è il bail-in, cioè il salvataggio interno, per cui non si possono scaricare sui contribuenti, varrà anche per le banche tedesche, perché sennò, per cui non basta dire noi non abbiamo debito, ma non puoi usare, teoricamente, adesso voglio vedere, non puoi usare i soldi pubblici per salvare le banche tedesche. Comunque grazie, perché insomma si capisce dal tuo racconto fatto di molti distinguo e anche quanto difficile sia in questo momento la situazione europea, il fronte britannico, il fronte Brexit, il fronte migranti con quello che ha fatto l'Austria e le reprimende arrivate da Juncker, e sullo sfondo il fronte tenuta e interpretazione della flessibilità di bilancio e politiche per la crescita. Andiamo sul traffico, poi la borsa e poi invece ci occupiamo solo di Italia e di prospettive economiche, perché parleremo della Corte dei Conti da un lato e dei dati tutti a ribasso diffusi dall'Ocse. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina e WhatsApp e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Focus Economia. Allora, qualcuno mi chiede, può dire qualcosa sulla Popolare di Vicenza? Abbiamo fatto quasi una puntata intera ieri sulla Popolare di Vicenza, no, oggi non abbiamo purtroppo nessuna buona notizia da aggiungere, ma invece borsa meno 1,50%, bene, Steam Microelectronics più 5,20, Buzzinice più 3,90, Telecom pure, A2A più 3,5, Azimut più 2,80, Saipem più 2,5, Luxottica più 2,40, Finmeccanica più 1,30, Ferrari più 0,60, di nuovo invece deboli tutte le banche, a partire dal Monte dei Paschi, meno 10%, Pop Milano meno 6,40, Unicredit meno 5,40, Ubibanca meno 5,50 e ancora Banco Popolare meno 5,51, Intesa San Paolo meno 4,90, Anima Holding meno 3, Mediobanca meno 2,90, Eni meno 2,13, CNH meno 2, Mediaset meno 1,80, Tods meno 1,30, come Moncler, Tenaris meno 1,1%. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, le banche oggi di nuovo stanno pagando. Allora, so che alcuni dicono che sono presi beneficio. Sì, presi beneficio, diciamo, dagli ultimi giorni, perché le banche sono ancora sotto da inizio anno. E poi invece Ubibanca, c'è stata anche l'annuncio ieri in serata degli industriali bresciani che hanno creato questa associazione col 12% delle quote, no? Sì, c'è stato appunto questo patto di consultazione fra 173 diciamo grandi azionisti. Ho detto industriali, in realtà sono azionisti, non solo industriali, basta. Grandi azionisti un po' di Ubibanca che raggruppano il 12% del capitale e che hanno annunciato attraverso questo patto di consultazione, oltre a consultarsi e a sostenere la banca, anche di l'intenzione di presentare una lista per il rinnovo del CDA, visto che è in scadenza con la prossima assemblea per l'approvazione del bilancio. Per quello che riguarda le banche più in generale, è vero, è difficile dire prese di beneficio quando ci sono questi cali, è anche vero, come ricordavi già tu, che se guardiamo proprio solo all'ultima settimana, proprio i titoli bancari erano stati fra i migliori, nelle ultime 5 sedute, cito ad esempio BPER, ha guadagnato quasi il 20%, certo, anche altre banche avevano guadagnato più del 10%, e predomina probabilmente, almeno a quello che ci riferiscono, un po' l'incertezza. Nel momento in cui le borse hanno girato leggermente, visto che il prezzo del petrolio, che si era mosso in rialzo sul finale, è caduto dopo che appunto sembra più difficile arrivare a un taglio della produzione, le vendite si sono concentrate su quei titoli che negli ultimi giorni avevano guadagnato di più, e per Milano questo ha voluto dire forti vendite sui bancari. Invece dopo il GR24 parleremo di chi ha guadagnato, perché ci sono notizie su Steam Microelectronics e anche su Finmeccanica, e poi c'è questo recupero, diciamo, di Saipem a operazione chiusa, anche se le prospettive non sono proprio rosee su Saipem. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito della 24, il GR. Io vorrei un'Europa fondata sul lavoro. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. C'è chi mi dice: guardi che voi dovreste parlare anche per quello che riguarda le banche. C'è chi mi scrive chiaramente anche della scarsa vigilanza degli organi di controllo tipo Consob e del ruolo della Banca d'Italia. Guardi, ne abbiamo parlato parecchie volte anche ieri sulla Popolare di Vicenza, nel senso che qualcosa non ha funzionato, per essere buoni, nel controllo. Però restiamo sulla borsa. E con Guido Maurino volevo affrontare Steam Microelectronics più 5,20% da un lato, la ripresa parzialissima di Saipem, il titolo è ancora 34 centesimi, ha guadagnato il 2,55%, e quindi Steam Microelectronics e Saipem. Sì, allora, per quello che riguarda ST, beneficia della notizia che la società investirà 270 milioni nei prossimi 3 anni per aumentare la produzione dello stabilimento di Catania, dove sono impiegati circa 4.000 addetti. Si tratta di una notizia che è stata giudicata positivamente dagli operatori, perché lo stabilimento di Catania era uno di quelli considerati più a rischio, più in crisi, con una produzione più bassa, per cui questi investimenti aumentano l'efficienza dello stabilimento. Per quello che riguarda Saipem, dopo aver toccato un minimo a 0,3 euro nei giorni scorsi, il titolo sta cercando lentamente di risalire, anche la chiusura di oggi è positiva a 0,3461 euro, tuttavia ormai si guarda anche ai conti che verranno diffusi la prossima settimana e le aspettative non sono positive. Ci si attende un rosso di circa 800 milioni di euro, quindi una perdita importante per Saipem, e anche le prospettive potrebbero essere a rischio, perché tutto il piano della società presentato a novembre era fatto su prezzi del petrolio che dovevano essere di 55 dollari medi per quest'anno e poi a salire. I prezzi attuali non sono notevolmente più bassi e rischiano un po' di mettere a rischio tutto il progetto industriale di Saipem. Allora, per quello che riguarda invece Finmeccanica, anche qui ci sono notizie di mercato, più 1,30%. La società si è aggiudicata una commessa per fornire dei sistemi di aviazione per degli aerei che verranno prodotti per le forze armate australiane, una notizia che anche in questo caso è positiva, il titolo ha guadagnato l'1,30%. Allora, per quello che riguarda migliori e peggiori in assoluto, invece oggi in borsa, al di là dei titoli già citati, chiaramente Olidata più 21, Bialetti più 20, Poligrafici Editoriali più 13,40%, invece il fronte opposto è rappresentato dai KF meno 10, Monte dei Paschi, l'abbiamo detto, Cassa di Risparmio di Genova meno 9,47%, Credem meno 5,80%, RCS, Rizzoli Corriere della Sera, Media Group meno 5,60%. Grazie a Guido Maurino. E adesso entriamo nel tema tutto italiano. Da un lato le denunce della Corte dei Conti, denunce, gli allarmi più che denunce, sulla spending review e sui margini di risparmio che vi possono essere, nel mentre l'OCSE diffonde delle stime sulla crescita mondiale, ma anche sulla crescita europea e italiana, tutte al ribasso. Con le due ultime leggi di stabilità, l'obiettivo esplicito del governo è stato quello di puntare al consolidamento della ripresa economica, ancora troppo fragile, attraverso interventi mirati di sostegno della domanda interna di consumo e di investimento, finanziati anche in disavanzo, ma nel rispetto del profilo di graduale riduzione del rapporto indebitamento PIL e del debito pubblico. I margini di flessibilità acquisiti in sede europea sono interamente utilizzati nella manovra di finanza pubblica per il 2016. In tal modo si mantiene il profilo discendente del deficit dei conti pubblici, che tuttavia assume una cadenza più rallentata, restando comunque al di sotto della soglia del 3%. Nei prossimi anni i margini di risparmio dal lato delle spese potrebbero rivelarsi limitati, anche in considerazione dei risultati importanti già conseguiti dopo l'avvio della crisi economica internazionale. Ciò va ribadito in un quadro prospettico di finanza pubblica che impone ancora di trovare spazi per correzioni non marginali della spesa, anche allo scopo di consentire di affrontare la questione complessa del carico fiscale. Queste considerazioni hanno indotto la Corte ad approfondire il tema della revisione della spesa per offrire un contributo informativo utile a meglio orientare le scelte di ulteriore contenimento. Su questo tema l'Istituto sta ultimando un rapporto che entro il mese di marzo sarà posto a disposizione del Parlamento. Si tratta di una verifica che potrà rivelarsi utile anche per valutare la razionalità degli assetti che si vanno affermando, con riguardo da un lato ai costi che gravano sulla finanza pubblica e dall'altro ai riflessi sulla qualità dei servizi resi alla collettività. E poi il passaggio appunto dove dice attenzione, c'è un parziale insuccesso della spending review. Avete appena sentito il Presidente della Corte dei Conti, Raffaele Squittieri, all'inaugurazione dell'anno giudiziario. Parziale insuccesso anche per la poca conoscenza delle diverse categorie di spesa, e ha posto solo sullo sfondo il tema essenziale dell'interrelazione con la qualità dei servizi. Quindi dice attenzione, se ci sono operazioni poco mirate che sopprimono le prestazioni rese alla collettività, non è che tu stia facendo una grande spending review, perché poi sappiamo che questa contrazione o compressione della spesa riemerge. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E buonasera, lo ringrazio anche al professor Francesco Daveri, che insegna politica economica all'Università Cattolica di Piacenza. Buonasera Daveri. Buonasera. Con lei parleremo anche dell'OCSE. E Guido, insomma, la Corte dei Conti dice, sintetizzo, attenzione, la spending l'avete fatta con poco mirata, nonostante, io non capisco perché c'è chi dica lei ha sempre elogiato la spending review del governo, ma che programma ha sentito questo ascoltatore che dice che il programma è di una noia, ma lo ascolta tutti i giorni scrive. Noi abbiamo sempre criticato una spending che ritardava, hai fatto fuori Cottarelli, è arrivato Gutgeld, l'abbiamo avuto ospite un paio di volte, ma sapevamo che poi alla fine dell'anno non si sarebbero avuti quei risparmi, le municipalizzate sono ancora lì, le partecipate sono ancora lì e via così. E dice attenzione che i margini ormai sono limitati per i prossimi anni. E Guido, io ho la sensazione che, se prendiamo anche quello che dice l'OCSE oggi, così il sentiero si stia stringendo per la manovra. Beh sì, già il governo aveva previsto una crescita per il 2016 dell'1,6% del prodotto interno lordo. Oggi l'OCSE ultimo, dopo anche la Commissione Europea ha ulteriormente abbassato queste stime, quindi si viaggia sull'1%, sappiamo anche che non sarà mai raggiunto l'1% di inflazione, dalla quale si sperava ci potesse arrivare un piccolo aiuto anche della crescita del PIL, cioè quindi sulla riduzione del debito. Sono tutti temi che sono legati, i margini sono sempre più stretti, e ovviamente la Corte dei Conti, per la verità, diciamo che ogni anno ripete un po' il suo purtroppo per il Paese, perché vuol dire che la revisione della spesa non procede come dovrebbe, ogni anno ci fa più o meno lo stesso allarme. Effettivamente quest'anno però, in vista, tra l'altro, noi sappiamo che il governo deve predisporre la legge di stabilità per il 2017, partiamo per cominciare dal dover eliminare le clausole di salvaguardia fiscale che valgono circa 15 miliardi e questo solo, diciamo, prima ancora di mettersi, diciamo, seduti al tavolo. E ora ho visto anche che Guttgart ha prospettato nei giorni scorsi la necessità di avviare una fase 2, diciamo, dell'attività di governo, in particolare sulla spending review, che non si è vista fino a oggi. E questo è un dato di fatto, e ovviamente la Corte dei Conti sottolinea che i margini poi di intervento sono ormai molto molto stretti. Io però non mi farei grandi illusioni su grandi manovre dal lato della spesa pubblica. Sì, devo dire che Zanetti oggi, il vice ministro dell'economia, poco fa ha detto: grande rispetto per la Corte dei Conti, ma abbiamo fatto 25 miliardi di spending in 2 anni. Sì, però io dico una cosa, con massimo rispetto per il governo, dove sono? Cioè, non si possono sparare le cifre così a caso. Detto a caso, voglio sparare le cifre non a caso, ma senza giustificare e articolare, perché noi sulla spending abbiamo visto pochissimo. Professor Daveri, dopo il traffico, io vorrei capire una cosa. Mi viene un sospetto così, che magari Renzi stia alzando la posta in gioco e i toni anche, basta vedere le dichiarazioni di ieri, con l'Europa e nello specifico con la Germania, come azionista di maggioranza di questa Europa, diciamola così, perché capisce benissimo che rallentando l'economia e avendo pochi margini di flessibilità bisogna andare a ridiscutere tutto il pacchetto di norme. È un sospetto, vorrei sentire la sua opinione dopo il traffico. Focus Economia. Allora, professor Daveri, l'OCSE rivede a ribasso le stime per la crescita mondiale, non oltre il 3%, le rivede anche per l'Europa e le rivede anche dall'1,8 all'1,4, parlo di quest'anno, sull'anno prossimo nemmeno mi pronuncio, e le rivede anche per l'Italia, non oltre l'1% contro l'1,4, scusatemi, precedentemente atteso. E scendono anche per gli Stati Uniti, dal 2,5% al 2%, per la Germania dall'1,8 all'1,3%, la Francia, scusate, ancora tiene un po' meglio, dall'1,3 all'1,2, la Cina al 6,5%, Brasile meno 4%. È per questo, diciamo, che Renzi ha iniziato, chiamiamolo così, la sua campagna europea, la campagna di Bruxelles? Ma chissà perché ha fatto questa cosa, però sicuramente il dato è che non è l'Italia che rallenta, ma è tutta l'Europa che rallenta. Quindi in un'Europa che rallenta per intero, che ci sia più spazio per ulteriore flessibilità per tutti, non solo per mendicare la flessibilità per noi mentre gli altri non ne hanno bisogno. Ecco, questo potrebbe essere una considerazione che magari che ha influenzato alcune delle mosse del Presidente del Consiglio, così un po' muscolari delle ultime settimane, però come facciamo a sapere? Ma dico, ma lei ritiene che, essendo il calo complessivo e anche europeo, vi possa essere maggior spazio per qualche forma di flessibilità o di politica per la crescita? Ma penso di sì, cioè bisognerà vedere poi quali. L'OCSE un po' indica, no, lo spazio più per gli investimenti pubblici, solo che in Europa investimenti pubblici vuol dire piano Juncker, che è il desaparecido della politica europea, quindi nessuno non è mai apparecido, non si è mai visto, insomma. Quindi o entra in una fase operativa sotto la spinta del rallentamento dell'economia, quello che appunto non si è mai visto finora, altrimenti gli spazi per riuscire a fare le cose più ambiziose di cui parla ogni tanto Padoan, il sussidio di disoccupazione europeo, mi sembra che non ci siano, perché costerebbe tanto fare questo genere di politiche. E quindi è vero che un po' di flessibilità in una fase di rallentamento della crescita, perché non si parla di recessione, si parla di, anziché fare l'1,8 l'Europa farebbe 1,4, quindi insomma comunque sarebbe una ripresa rallentata, beh insomma potrebbe esserci un po' più di margine. Rimane il fatto che poi però la posizione nei confronti dei conti pubblici dei vari paesi europei continua a essere diametralmente opposta, con Germania e pochi altri vicino alla Germania, vicino allo zero, e Francia e Spagna molto peggio di noi dal punto di vista del deficit e un po' meglio dal punto di vista del debito, però fondamentalmente Francia, Spagna e Italia ognuno per sé, insomma ognuno ha i suoi problemi, e quindi rimarrà comunque credo il negoziato tra chi ha fatto o chi ritiene di non aver bisogno di fare aggiustamenti fiscali, di dare lezioni agli altri, che sono i tedeschi, nei confronti degli altri, che però faticano a coalizzarsi perché insomma ognuno poi coltiva anche un po' le proprie esigenze, che sono magari un po' diverse. Guido Gentili, non vorrei che il volo sembrasse pindarico, però le difficoltà che sta trovando il governo sul disegno di legge Cirinna non rischiano di ritardare, perché abbiamo visto che è successo, il dietro front, chiamiamolo così, c'è chi l'ha chiamato volta faccia, ma non interessa la definizione dei 5 Stelle e il rinvio della discussione, non rischiano di ritardare gli altri fronti? Perché insomma il governo è uno, l'agenda parlamentare è una e abbiamo c'è il fronte europeo in primis, c'è un fronte interno anche di una ripresa rallentatore, non rischia di creare un po' un ingorgo, un imbuto? Beh, certamente se adesso diciamo i lavori per il disegno di legge Cirinna sono previsti riprendere la prossima settimana, per mercoledì prossimo, e già abbiamo perso diciamo abbastanza tempo su questo terreno tra mille polemiche che tra l'altro diciamo ovviamente complicano vieppiù il quadro politico interno, diciamo. Ecco, se dovessimo ancora perdere del tempo prezioso su questo, perché o questa legge diciamo così va al mascero, nel senso che non ci sono le condizioni più, perché sono cambiate le posizioni dei partiti, per farla, oppure diciamo deve poi diciamo accelerare la sua corsa, perché altrimenti fermarsi su questo terreno, francamente, nel momento in cui l'Italia è impegnata in un duro confronto con Bruxelles, non dimentichiamo che a maggio ci sarà la famosa pagella, diciamo. Un esame non da poco, che entro la metà di aprile deve presentare, comunque l'Italia deve fare il primo passaggio verso quella che è la legge finanziaria per il 2017. Beh, insomma, su questo terreno c'è molto da lavorare. Pensiamo alla spending review, se vogliamo fare qualcosa, oppure se non vogliamo fare finta di nulla e quindi vogliamo passare oltre anche su questo terreno. E certamente diciamo tutto quello che distoglie l'attenzione da questo tema, che poi è quello fondamentale, perché oggi si apre un Consiglio europeo dei capi di governo dell'Europa, che insomma è centrato sui temi di Brexit e dei migranti, ma sotto traccia e nemmeno troppo c'è anche tutto il resto, compresa la posizione italiana, che quindi insomma su questo terreno Renzi gioca molta parte della sua scommessa. Professor Daveri, lei teme che poi si arrivi a maggio in ordine sparso, cioè ricollegandoci al tema di apertura, quello che sta capitando nel Consiglio europeo sulla Gran Bretagna e poi l'Austria sui migranti dimostra un'Europa ancora dove ognuno va per sé. Voglio dire, se si arrivasse in ordine sparso, chi ne trarrebbe un vantaggio, visto che poi tutti i governi devono da un lato ricevere la pagella, chiamiamola così, di Bruxelles, dall'altro poi predisporre le manovre finanziarie per l'anno prossimo? Ma noi tanto dovremo far vedere alcune delle nostre carte con il DEF 2016 a metà di aprile, quindi quando si arriva a maggio il governo avrà già scoperto alcune delle sue carte, vuol dire che avrà già scritto quali sono le sue intenzioni in termini di impegni programmatici per il 2007, con una partenza di 2,4 di deficit per il 2016, che ancora non è stato approvato perché per l'appunto se ne parlerà a maggio, però anche solo un rallentamento della crescita da 2,4 lo porterebbe automaticamente in su, quindi noi arriveremo credo già con dei numeri dichiarati. A quel punto, se ci sarà la situazione ognuno per conto suo, a perderci saremo sicuramente noi e altri paesi così in una situazione di debolezza rispetto ad altri che invece si arroccano come al solito, come ha fatto già in passato la Germania prima di tutto. Quindi questo temo però che sia lo scenario più probabile. Ecco, l'ultima domanda per Guido Gentili. Alla luce di quanto è successo, secondo te questo rischia di mutare anche i rapporti della maggioranza, oppure chiuso il disegno di legge Cirinna si tornerà con la formazione che già conosciamo? Perché poi per far passare leggi finanziarie e per avere la forza in Europa occorre che tu abbia anche la forza della tua maggioranza, questo è abbastanza chiaro, Guido. Ma sì, da questo punto di vista il passaggio della Cirinna è un punto importante, come dicevo prima, perché questo diciamo determina anche degli equilibri diversi nei rapporti politici dentro la maggioranza. Se si supera questo scoglio rapidamente, Io credo che da questo punto di vista non dovremmo avere delle grandi sorprese, cioè non penso che l'NCD di Alfano si sfili sui temi della politica economica, e anzi lì, su questi terreni, Renzi può giovarsi dell'apporto di Verdini, no? Ecco, da questo punto di vista. Quindi io credo che sotto questo profilo Renzi non rischi. Viceversa, se invece la situazione della Cirinnà dovesse precipitare e quindi si dovesse risolversi con una di fatto, o diciamo finire con un esito diverso da quello che ha ipotizzato Renzi, allora lì sì, in questo caso, che potrebbero esserci dei contraccolpi a livello di maggioranza. E comunque quello che è chiaro, che come tu ricordavi, oggi l'Ocse, buon'ultima, diciamo, ma in maniera significativa, ha rivisto a ribasso tutte le stime, lo dico a chi mi sta scrivendo, non sono solo quelle italiane o solo quelle francesi, se vogliamo la Germania ha una riduzione della crescita anche superiore a quella italiana, dall'1,8 all'1,3%, ripeto, l'unica è la Germania e un po' la Gran Bretagna, tutte le previsioni di crescita, quindi che ci sia un rallentamento, ahimè, lo dico, dico proprio ahimè, anche negli Stati Uniti, e i dati che ricordavamo in apertura del programma sull'andamento dei consumi monitorato dalla più grande catena statunitense Walmart andrebbero in questa direzione. I dati sono relativi al quarto trimestre del 2015, però di una frenata iniziale dell'anno non sono certo positivi, tant'è che l'Ocse oggi parla di dati recenti deludenti, va a rivedere tutte le stime future. Grazie Francesco Daveri, grazie Guido Gentili, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Noi ci risentiamo domani con la poco invidiabile classifica. Questa settimana non mancano certo gli spunti, e quindi la top 5 degli sprechi della pubblica amministrazione e gli altri temi della giornata economico-finanziaria. Radio 24, la passione si sente.